Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. L'innovazione come motore di sviluppo. Le storie di Acmo e Colorificio San Marco. Di Adriano Palazzolo. Questa puntata speciale di Voci di Impresa dà il via a una serie di appuntamenti in cui, in collaborazione con Intesa San Paolo, Radio 24 racconta le storie di aziende italiane di successo in varie zone d'Italia. Dopo l'evento Sharing Italy, in cui più di 150 imprenditori si sono confrontati su soluzioni di sviluppo concrete, siamo andati alla ricerca di case history dove lo spirito imprenditoriale è riuscito a trasformare piccole botteghe, laboratori e stabilimenti in aziende di respiro internazionale, grazie a strategie vincenti basate su elementi come la filiera, l'internazionalizzazione, la promozione del Made in Italy nel mondo e l'innovazione. Storie di donne, uomini e imprese, ma anche di territori che raccontano esperienze di successo che possono essere di esempio per una crescita economica che si diffonda in tutto il paese. E proprio l'introduzione di sistemi e criteri nuovi, con l'innovazione di prodotto, il miglioramento o in alcuni casi il radicale cambiamento dei beni offerti e l'intervento sui sistemi, i macchinari e l'organizzazione della produzione sono alcuni dei cardini del fare impresa oggi. Un punto fermo in cui crede Paolo Sebastiani, presidente di Acmo, azienda trevigiana che progetta e realizza componenti idraulici destinati a impianti per distribuzione, irrigazione e trattamento delle acque. Negli anni 90 abbiamo incominciato a progettare apparecchiature ad alto valore tecnologico e nel 2000 siamo entrati nel campo dell'IoT, dell'Internet delle cose. Oggi creiamo valore con l'innovazione, quindi è tutto. Noi investiamo intanto in uomini e donne, donne e uomini, e poi siamo sempre alla ricerca e costantemente studiamo le nuove tecnologie, disegno, progettazioni veloci, stampe 3D, eccetera, quello che oggi poi si trova abbastanza facilmente, è meno facile applicarlo. Noi stiamo pensando tanto, abbiamo un programma di investimento molto importante per la nostra azienda, anche in funzione dei nostri cifre d'affari, fatturato. Noi siamo una piccola media azienda e quindi però abbiamo un programma di investimento molto importante per i prossimi 3-5 anni. Incentrato sulle nuove tecnologie, sui sistemi di trasmissione dei dati, che secondo noi è un punto focale anche nel settore, diciamo, basico come quello della valvola, nel settore acquedottistico. Quindi questo è un po' il nostro focus per i prossimi anni. Acmo è stata fondata nel 1968 dall'ingegnere Serafino Lavagnolo, esperto nel settore degli acquedotti, e ha sede a Roncade, in provincia di Treviso. Oggi sua figlia Sofia è l'amministratore delegato di un gruppo formato da aziende acquisite a partire dagli anni 90. Con queste aziende, Acmo ha integrato la raccolta di dati alle apparecchiature idrauliche attraverso i sistemi informatici. Una delle applicazioni è, ad esempio, il monitoraggio delle reti idriche, che permette un controllo dei flussi per ridurre gli sprechi. In pratica, rendere le valvole idrauliche di un acquedotto veri e propri strumenti di raccolta dati. Una strategia, quella di puntare sull'informatica applicata alla meccanica, che è risultata vincente per rispondere alla crisi, come spiega ancora Paolo Sebastiani, entrato in azienda nel 1985. Diciamo che ci sono sempre i momenti di criticità, cerchiamo nel limite del possibile di anticiparli quando si può. La nostra azienda è un'azienda storica, quindi ha anche, diciamo, una solidità finanziaria che deriva un po' da tanti anni. Però tutto sommato il nostro non è un prodotto di nicchia, quindi risente sicuramente meno di questi periodi di forte crisi e quindi, insomma, per noi è stato un pochino più semplice. Certamente non è stato facile, però è stato un pochino più semplice. È stato anche uno stimolo per noi nello studiare nuove tecnologie, ma soprattutto applicarle a un settore classico come quello delle valvole e delle apparecchiature idrauliche. Abbiamo rilevato una società che era presente nel telecontrollo, che oggi si dice IoT, Internet delle cose, e abbiamo studiato sistemi che si potessero integrare con le nostre apparecchiature. L'ultimo fatturato dell'azienda ha superato i 17 milioni di euro, con una vocazione principalmente domestica, dal momento che il mercato italiano spesa per il 70%. All'estero, ACMO vende soprattutto in Nord Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Il lavoro in questo settore va sempre di più nella direzione dell'Internet delle cose, ovvero una sintesi tra meccanica e tecnologia, che rappresenta una delle ultime frontiere dell'innovazione. E proprio su questo aspetto, ACMO ha trovato il supporto della banca. E Banca Intesa si sta ponendo come una banca di forte supporto all'innovazione e quindi questo per noi è molto importante. Anche con il discorso dell'industria 4.0, anche questo è un argomento molto molto importante per le aziende, per noi soprattutto. Beh, intanto ci ha dato una consulenza, tra virgolette, per accesso a queste forme di finanziamento che sono molto interessanti per le aziende oggi. A parte il lavoro quotidiano con la banca, perché noi collaboriamo moltissimo con Banca Intesa, abbiamo potuto accedere ai benefici di Industria 4.0 e accediamo anche a delle forme di finanziamento e linee di credito che con l'Industria 4.0 sono decisamente interessanti per le aziende. L'innovazione è uno dei punti di forza anche di Colorificio San Marco, azienda nata 80 anni fa, quando il cavaliere Pietro Tamburini allestisce un magazzino di terre colorate vicino alla stazione di Treviso. Nel 1937, infatti, non esiste ancora il prodotto pittura in sé, ma gli artigiani mettono insieme una serie di terre per creare poi il marmorino, un particolare tipo di intonaco. A raccontare come quel magazzino diventa un'azienda con 10 stabilimenti produttivi e che esporta in 100 paesi nel mondo è Pietro Geremia, vicepresidente del gruppo e rappresentante della quarta generazione della famiglia. La seconda generazione, Alessandrina Tamburini, la figlia del fondatore, ha dato un'impronta industriale all'azienda, quindi portando un'azienda artigianale da un'azienda industriale e dando una forte serietà e attenzione anche amministrativa all'azienda. La terza generazione, Federico Geremia, che è entrata negli anni 70, invece ha promosso gli sviluppi commerciali dell'azienda, prima in Italia, puntando su una rete commerciale professionale di punti vendita, ma soprattutto iniziando il percorso internazionale all'estero e il processo di acquisizioni del gruppo. La quarta generazione, quindi noi tre figli, abbiamo dato continuità ai progetti dell'azienda, quindi abbiamo ulteriormente reso l'azienda più internazionale, abbiamo fatto altre acquisizioni, ma soprattutto abbiamo aperto l'azienda ai manager, quindi abbiamo creato una struttura organizzativa con manager di comprovate esperienze anche da altri settori che porteranno avanti negli anni futuri la mission dell'azienda. Colorificio San Marco oggi ha sede a Marcon, in provincia di Venezia. Per un'azienda che è passata dalle terre colorate alle pitture e vernici per l'edilizia professionale, l'innovazione gioca un ruolo fondamentale e viene declinata nel settore della ricerca e sviluppo per soddisfare le esigenze di un mercato in costante cambiamento, sia in Italia sia all'estero. In merito alla ricerca e sviluppo, l'azienda percorre due diverse strade. La prima è il continuo miglioramento dei prodotti esistenti, perché l'edilizia sta notevolmente cambiando, quindi ci sono dei trend e quindi i nostri prodotti vengono aggiornati. E poi il secondo filone è l'innovazione proprio intesa come novità di prodotto. Abbiamo dei comitati interni, quindi gruppi interfunzionali che raccolgono le diverse richieste del mercato, e i nostri drive per la ricerca e sviluppo sono nicchie di prodotto, sono sostenibilità e sono prodotti che generano ritorni di fatturato a breve termine. Nel nostro settore, quindi, pitture e vernici per l'edilizia, sicuramente i nuovi trend riguardano le ristrutturazioni, quindi in Italia il nuovo è crollato, invece le ristrutturazioni sono ancora vive. Un secondo trend è il settore dei pavimenti, quindi gli esterni sono diminuiti e il consumo si è spostato sulla pavimentazione. Terzo e ultimo trend sono tutti quei prodotti ad alto contenuto estetico che noi vendiamo in oltre 100 paesi e rappresentano il made in Italy, il made in Venice, da un punto di vista di interior design e di anche fashion. L'ultimo fatturato dell'azienda è stato di 70 milioni di euro, divisi per il 55% nel mercato italiano e per il restante 45% all'estero, principalmente in Russia, i paesi del CIS, le ex repubbliche sovietiche, il Medio Oriente, il sud-est asiatico e l'Europa continentale. L'esportazione, insieme a una spending review interna all'azienda e agli investimenti, sono stati fondamentali per superare la crisi economica. Gli anni della crisi economica, quindi dal 2009 in Italia, che è partita uno o due anni dopo la crisi, diciamo, internazionale, l'azienda ha assolutamente migliorato la redditività, quindi abbiamo fatto una forte attenzione sui costi da una parte e dall'altra abbiamo fatto diversi investimenti all'estero, quindi sono stati degli anni dove l'azienda ha acquisito quote di mercato rispetto ai nostri concorrenti e abbiamo puntato molto sulla efficienza interna, sull'esportazione e in generale sulla qualità. Quindi nel corso degli ultimi, dal 2002 al 2016, la crescita media annua composta dell'azienda è del 6%, nonostante le crisi finanziarie, nonostante la maggiore concorrenza internazionale. L'azienda ha realizzato negli ultimi 10 anni 4 acquisizioni che dal 2009 al 2017 hanno rappresentato quasi il 50% della crescita dell'azienda. Abbiamo realizzato 2 nuovi siti produttivi, uno in Italia e uno in Russia, e ovviamente abbiamo continuato ad investire sul motore dell'azienda, che è la ricerca e sviluppo. Quindi il segreto dell'azienda è stato, una parte, reinvestire i soldi, gli utili dell'azienda, per generare ulteriormente reddito e sviluppo per tutti. Pietro Geremia, voce narrante di questa seconda storia della puntata, e le sorelle Mariluce e Marta, però, non hanno intenzione di fermarsi qui e, sotto la supervisione attenta del padre, Federico, sono pronti a un'ulteriore fase di sviluppo e consolidamento. L'azienda ha approvato il piano industriale 2018-2020, che ha definito le linee guida di crescita e di sviluppo di tutto il gruppo, e essenzialmente la volontà del gruppo è accelerare la crescita internazionale, ma al tempo stesso rafforzare la leadership nel nostro settore in Italia, un mercato che è molto frammentato e dove l'azienda può ancora ottenere delle soddisfazioni. Questo lo crediamo di fare con una forte collaborazione in Italia con i nostri migliori clienti, per poterli aiutare a ricercare il consumo finale. Quindi la nostra sfida è andare a parlare attraverso i nostri clienti rivenditori con il consumatore finale, per, diciamo, essere sempre più orientati al consumatore. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.